Capitolo 125esimo. La terza fatica. La cerva di Cerinea. Terza fatica di Eracle fu catturare la cerva di Cerinea e condurla viva da Enoe a Micene. Questo agile animale dal mantello maculato aveva zoccoli di bronzo e auree corna simili a quelle di un cervo, tanto che taluni la considerano un cervo. Era sacra ad Artemide che, ancora fanciulla, vide cinque cerve di inusitate proporzioni pascolare sulle rive del fiume tessalico Anauro ai piedi dei monti Parrasi. Il sole scintillava sulle loro corna. Lanciatasi all'inseguimento, la dea ne catturò quattro, l'una dopo l'altra, con le proprie mani, e le aggiogò al suo carro. La quinta fuggì oltre il fiume Celadone fino alla collina di Cerinea. Tale, infatti, era la volontà di Era, che aveva già in mente la fatica di Eracle. Secondo un'altra leggenda, la cerva era un mostro indomabile che saccheggiava i raccolti, ed Eracle, dopo fiera lotta, la sacrificò ad Artemide sul monte Artemisio. Eracle, che non voleva né uccidere né ferire la cerva, portò a termine questa fatica senza ricorrere alla forza. Instancabile, egli la inseguì per un anno intero, spingendosi sino in Istria e nella terra degli Iperborei. Quando esausta, la cerva si rifugiò infine sul monte Artemisia e di lì scese al fiume Ladone. Eracle tese l'arco e scoccò una freccia che trafisse le gambe anteriori dell'animale, passando tra l'osso e i tendini senza fare sgorgare sangue. Poi, gettatasi la cerva sulle spalle, si affrettò verso Micene attraversando l'Arcadia. Altri tuttavia dicono che egli si servì di reti, oppure seguì le tracce dell'animale finché lo trovò addormentato sotto un albero. Artemide andò incontro a Eracle e lo rimproverò aspramente perché aveva maltrattato la cerva a lei sacra, ma Eracle si difese dicendo di esservi stato costretto e fece ricadere la colpa su Euristeo. La collera della dea allora si placò ed essa permise all'eroe di portare l'animale vivo sino a Micene. Secondo un'altra versione, quella cerva era stata consacrata ad Artemide dalla Pleiade Taigeta, sorella di Alcione, grata per aver potuto assumere temporaneamente le sembianze di Cerbiatta, sfuggendo così all'amplesso di Zeus. Ciò nonostante, Zeus non si lasciò trarre in inganno una seconda volta e generò in lei Lacedemone. Allora essa si impiccò sulla cima del monte Amicleo, che da quel giorno fu chiamato Taigeto. La nipote e omonima di Taigeta sposò Lacedemone ed ebbe da lui un figlio, Imero. Afrodite indusse Imero a deflorare la propria sorella Cleodice, senza che egli se ne rendesse conto, in una notturna orgia promiscua. Il giorno seguente, accortosi di ciò che aveva fatto, Imero si gettò nel fiume e nessuno lo vide più. Quel fiume ora viene a volte chiamato Imero, ma più spesso Eurota, perché il predecessore di Lacedemone, il re Eurota, dopo aver subito un'ignominiosa disfatta per mano degli ateniesi, volle infatti attaccare battaglia senza attendere la luna piena, si annegò nelle sue acque. Eurota, figlio di Milete, l'inventore dei mulini ad acqua, fu padre di Amieia e nonno sia di Giacinto sia di Euridice, che sposò Acrisio. Questa terza fatica ha un carattere diverso dalle altre. Storicamente si ricollega forse alla conquista achea di un tempio dove Artemide era adorata come Elafia, simile a cerva. I quattro cervi che trainavano il suo cocchio rappresentavano gli anni delle Olimpiade e al termine di ciascuno, infatti, una vittima ricoperta di pelle di cervo veniva inseguita e uccisa. Elafia, a ogni modo, pare sia stata la nutrice di Artemide, che si identifica con Artemide stessa. Dal punto di vista mitico, questa fatica pare riguardi Eracle Dattilo, identificato dai Galli con Ogmio, che inventò l'alfabeto Ogam e fornì ai bardi tutto il loro bagaglio di cognizioni. La caccia alla cerva o daina simboleggia la faticosa ricerca della saggezza che viene raggiunta, secondo la tradizione mistica irlandese, all'ombra di un albero di mele. Ciò varrebbe a spiegare come mai tutti, salvo il malinformato Euripide, affermino che Eracle non fece alcun male alla cerva, mentre si limitò a inseguirla instancabile per un anno intero, spingendosi fino alla terra degli Iperborei, che erano esperti appunto in tali misteri. Secondo Polluce, Eracle fu chiamato Melon, delle mele, perché gli furono offerte mele presumibilmente in segno di omaggio alla sua saggezza. Ma la saggezza veniva accompagnata dalla morte e la caccia alla cerva, come la visita di Eracle al giardino delle Esperidi fu in realtà un viaggio nel paradiso celtico. In modo analogo Zeus aveva inseguito Taigeta, che era figlia di Atlante e perciò non apparteneva alla mitologia ellenica. In Europa soltanto le femmine delle renne hanno corna e una descrizione di tali animali può essere giunta dal Baltico seguendo la via dell'Ambra. La renna, appunto, contrariamente agli altri cervidi, può essere aggiogata a un carro. Il suicidio di Imero, figlio di Taigeta, e del suo suocero Eurota, si fa supporre che anticamente i re di Sparta fossero sacrificati al mostro acquatico Eurota e gettati, il corpo avviluppato da rame, in una pozza profonda. Tale pare fu la fine di Tantalo, un altro figlio di Taigeta. Lacedemone significa demone del lago e Laconia è la terra di Lacona, signora del lago, il cui simulacro fu strappato alla furia degli invasori dori da un certo Preugene e portato a patre in terra achea. Dietro la leggenda della metamorfosi di Taigeta pare si celi il fatto che i conquistatori achei di Sparta chiamarono se stessi Zeus e le loro mogli Era. Quando si cominciò a onorare Era in forma di vacca, il culto di Artemide Cerva fu soppresso. Può darsi che fossero celebrate nozze rituali tra Zeus Toro ed Era Vacca, come avveniva in Creta. Promiscue orge notturne si svolgevano in parecchi stati greci e a Roma durante le ferie albane. Si trattava di una concessione ad arcaiche abitudini sessuali che precedettero la monogamia.